A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, si è conclusa dunque la bella avventura in Coppa Italia del Novara. Va avanti invece quella della Juventus. La lettera di un ascoltatore novarese scelta tra parecchie arrivate da Novara e dintorni sintetizza questo strano pomeriggio vissuto ieri a San Siro. Scrive Giovanni: ieri ero a San Siro, come peraltro quasi tutta Novara. È difficile spiegare cosa sia stata questa giornata per noi tifosi di una squadra che da più di 30 anni frequenta gli stadi di Poggibonsi o di Meda con lo stesso orgoglio che avevamo ieri a San Siro. Penso sia stata una boccata d'ossigeno per tutti vedere una squadra con le maglie numerate rigorosamente dall'1 all'11 e io aggiungo senza nomi sulla schiena, dove come una volta il numero 3 e il terzino sinistro, una squadra come questa lottare alla pari contro la squadra più titolata al mondo. Penso che il clima creato ieri ai tifosi novaresi sia la dimostrazione che qualcosa di buono in questo disastrato mondo del calcio ci sia ancora. La passione e il senso d'appartenenza sono, a parer mio, conclude Giovanni, i valori che ancora tengono in piedi il gioco del calcio. Ci sono anche dei commenti sulla partita di ieri, sentirei proprio quello dell'allenatore del Novara, Tesser, dopo questa molto onorevole sconfitta con il Milan. Io sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, ce l'hanno messa tutta, penso che abbiamo fatto una buona figura qui a San Siro, era quello che volevamo fare, ci eravamo regalati un sogno battendo squadre di Serie A, di Serie B, e penso che alla fine i nostri tifosi, che hanno fatto un esodo straordinario, vadano a casa contenti. Adesso riprendiamoci il campionato, che è quello che conta. Sull'altro fronte, citato all'inizio, poi ci sono stati risultati sorprendenti anche a Genova, per esempio, dove il Catania, che aveva appena perso in campionato dal Genoa, tre giorni dopo si è presa la rivincita, eliminando i genoani al termine di una partita abbastanza tumultuosa. I commenti da Torino, ma forse il più significativo, è la sintesi tracciata alla fine da Roberto Bettega. I dubbi nascevano più sulla parte scritta che su quella nostra. Diciamo che il progetto, cioè il nostro lavoro va avanti, e certamente veniamo da una situazione non facile, però continuiamo a lavorare con alacrità e con molto impegno. Nulla è perduto, abbiamo una stagione ancora con degli obiettivi importanti, che sono la qualificazione Champions, la Coppa Italia appunto, la Coppa UEFA, che non è sempre una Coppa, anzi io la chiamo ancora Coppa UEFA, mi scuderete. Quindi abbiamo gli obiettivi, ne abbiamo molti, e poi una società, una squadra come la Juve non può mollare a questo punto del campionato, deve sempre guardare avanti, magari giorno per giorno adesso, ma guardare avanti. Ci sono state in Europa anche ieri sera eliminazioni eccellenti dalla Coppa Nazionale. Ieri sera ha toccato al Liverpool, per esempio, anche al Paris Saint-Germain, se vogliamo. Ed è curioso notare, ampliando il panorama, come in Spagna siano saltate tutte e due le grandi, il Real Madrid addirittura dall'Alcorcón ai sedicesimi di finale. Il Barcellona è nato fuori ieri dal Siviglia, avendo però già compromesso l'esito all'andata. Quindi non so, in Inghilterra sono fuori Manchester United e Liverpool, in Spagna Real Madrid e Barcellona, in Francia il Paris Saint-Germain e alcune altre, in Germania il Bayer Leverkusen che è in testa al campionato, ma come il Bayer Leverkusen anche l'Hamburgo, anche lo Stoccarda, anche il Borussia Dortmund, a differenza di quanto accade in Italia, in cui le grandi in linea di massima sono ancora tutte presenti. Io volterei pagina, tornando poi sulla Coppa Italia con i vostri interventi più tardi, perché la scorsa settimana Verona città e tifoserie e terreno di gioco, soprattutto per la verità, erano salite alla ribalta per ragioni non proprio lusinghiere. Oggi, al contrario, Verona va in prima pagina per una non bella, stupenda iniziativa dell'associazione Veterani Hellas Verona, fondata da Franco Nanni, storico terzino gialloblu. Una onlus che, spiega lo stesso Nanni, servirà ad aiutare gli ex giocatori del Verona, dell'Hellas, che hanno bisogno d'aiuto. Tutti noi, ha spiegato Nanni, rappresentiamo il Verona e dobbiamo essere uniti fino in fondo, anche quando non siamo più in grado di correre sul prato del Bentegodi. Questa associazione, presieduta, ripeto, da Franco Nanni, ha tre vicepresidenti che sono Emiliano Mascetti, detto Ciccio, lo storico sia mezzala del Verona che poi direttore sportivo del Verona dello Scudetto, Sergio Maddè, altro grande rappresentante del Verona, insomma, altra figura storica veronese, e poi la figura storica per eccellenza che si chiama Osvaldo Bagnoli. Buongiorno Osvaldo. buongiorno Gigi. Buongiorno a te. Senti, Osvaldo, io vorrei che fossi tu a spiegare in che cosa, anche se poi il presidente è Nanni, questa ONLUS verrà varata effettivamente il prossimo 25 gennaio, quindi quella sarà la data ufficiale e in quel giorno sentiremo da Nanni esattamente in che cosa consisterà, però vorrei che tu ce l'anticipassi un pochino in concreto, cioè che cosa state già facendo e che cosa avete progettato di fare per i vostri ex compagni in difficoltà. Ma diciamo che bisogna tornare indietro al principio, per dirti, per raccontarla proprio, far capire fino in fondo. Cioè, Nanni, sua moglie è una spagnola e ogni tanto vanno a Barcellona, perché lei viveva a Barcellona, e Franco andava a vedere un po' gli allenamenti spagnoli, poi ho conosciuto che c'era il gruppo degli ex giocatori dei spagnoli come in tante altre squadre, e conobbe e diventò amici loro, così andava là e addirittura dopo ha cominciato a fare gli allenamenti con loro e è diventato un amico, insomma, ecco. Però il Barcellona erano gli ex e loro, si parlava degli ex del giallo-blu e c'era una diversità enorme, insomma. Dall'altro il Barcellona è 50 anni che hanno questa fondazione, e che attraverso il presidente, che era suo amico, ha saputo che certi giocatori che erano in difficoltà, adesso non sto lì a spiegare le difficoltà che ci possono essere, però difficoltà economiche, difficoltà di salute, tanto per far capire, insomma, potevano essere diverse le difficoltà. Ecco, lo staff si riuniva e decideva se poteva aiutare una cosa o l'altra, perché loro erano nati e facevano anche questo e fanno anche questo, insomma, via. Cioè aiutano gli ex giocatori del Barcellona. Al che questa cosa gli è piaciuta talmente tanto che si è preso, a parte che lui è già anche a Riccione, lui fa parte di un gruppo che aiuta gli ammalati terminali di cancro, insomma. Perciò già un'idea di quello che poteva essere, ha cominciato a sentire questa cosa e l'ha cominciata a trasmettere qua a Verona, primo di tutti a me, perché io sono un suo socio, e ci vediamo spesso. Siete albergatori, da me, come sappiamo. Da me la cosa è arrivata ai Mascetti, ai Maldè, che siamo tutti amici, e ai Giallo Blu 70. Sì. Così abbiamo trasformato questo modo di così, tanto per divertirci, di Giallo Blu 70, l'abbiamo trasformata in associazione, insomma. E adesso lunedì prossimo sarà la conferma che saremo un onlus, sempre con il principio di aiutare gli ex giocatori che non gli va tanto bene, ecco, tanto per dirti. Mi pare che questo sia il ragionamento. Questo è il ragionamento. Tutti pensano, cito una tua frase che ho letto sul Corriere di Verona, tutti pensano che sei la fortuna. Sì, però puoi alzare un momentino perché faccio fatica a sentire. Perfetto, allora facciamo così, Osvaldo. Alziamo un attimo l'audio mentre facciamo il solito minuto di intervallo per il traffico. A tempo di sport. Una notizia dell'agenzia appena arrivata informa che i tifosi del Napoli non potranno seguire la squadra in trasferta a Livorno il 23 gennaio. È un atto urgente preso dal Comitato Analisi per la Sicurezza e Manifestazioni Sportive in seguito agli atti di violenza compiuti ieri dai tifosi napoletani a Torino. In questa riunione il CASM ha però sottolineato anche i gravi fatti imputabili alla tifoseria bianconera e non si esclude l'adozione, leggo nel comunicato, di provvedimento anche nei confronti della tifoseria juventina. C'è tempo per le schifezze, perché stiamo parlando con Osvaldo Bagnoli. Va meglio l'audio, Osvaldo, adesso? Pochino meglio, sì. Pochino meglio. Senti, tutti pensano, cito una tua frase, che se hai avuto nella vita la fortuna di fare il calciatore, poi non ti potrà mai capitare niente di male. E invece è sbagliato. È da qui che sei partito per aderire a questa iniziativa. Sì, in verità diciamo che Nanni, cioè Franco, no? ci ha trasmesso un po' questo lui, ci ha trasmesso proprio che oggi io sto bene, domani potrei star, non star tanto bene, no? E se avessi bisogno di un aiuto, ma non soltanto, anche un aiuto morale, un aiuto medico, insomma, se c'è qualcuno, io penso che sia la cosa migliore che ci possa essere, insomma. E da lì che ci ha trasmesso questa cosa qua, è il nostro principio proprio della fondazione, insomma. Molto bella. Senti, parlandone stamattina quando abbiamo concordato questo appuntamento, è saltato fuori il vero Bagnoli, che adesso mi piacerebbe riproporre il microfono. Perché? No. No, perché? Perché tu hai detto che tu sei felice di aderire a questo e di dare il massimo dell'appoggio e della solidarietà. Quello che un po' ti dà fastidio è la tua sovraesposizione. Sì, e cioè non capisco e mi dà fastidio un po' questa cosa qua. Insomma, cioè il fatto che si parli più di Bagnoli che aderisce a questa Onlus che non a della Onlus stessa. Sì, e perché devo vedere Bagnoli portato in trionfo dai miei giocatori nel 1985 quando invece si potrebbe fare delle cose diverse, insomma, via. E questo mi dà l'impressione, mi dà un po' fastidio, perché può fare dei pensieri, qualcuno può arrivare a pensieri non tanto belli, insomma, come l'ho fatto io, ecco, che tu sia un megalomane, cioè che sia tu che mandi le foto ai giornali, cos'è? No, che pensieri possono fare? Penso che fino lì non ci arriverei, ma però ecco che si possa pensare a certe cose, insomma, ecco. E poi mi parrebbe più giusto la cosa fatta in modo diverso, ecco. Sì, d'altra parte io credo che esistano esigenze anche illustrative sui giornali, no? E quindi se si parla di Verona e se ci sei dentro tu, finisci in braccio ai giocatori 25 anni dopo. Sto vedendo sta foto ieri del Corriere in cui ci sono Brighe, Tricella, Bruni, Galderisi e gli altri. Galderisi un po' meno perché faceva fatica a tenerti sulle spalle perché sennò vi sbilanciavate, ma insomma direi che è inevitabile, anche se questa osservazione peraltro ti fa molto onore. Senti, poi ripeto, il 25 gennaio quando la Onlus verrà varata, io obbedirò a questa tua a questo tuo distinguo e chiamerò Nanni direttamente, il presidente, che parlerà della Onlus, che sarà molto più chiaro di me anche. Certo, spiegherà per esempio che a questa iniziativa hanno già unica anticipazione che voglio dare, hanno già aderito una vera task force di medici veneti, primari di prestigio assoluto in ogni settore sanitario, ha sottolineato Nanni, che saranno a disposizione per l'appunto degli ex gialloblu nell'ambito di questa iniziativa. Io con te invece vorrei concludere questo appuntamento di oggi con un'altra anticipazione, perché mi risulta che ieri, quando vi siete incontrati in comune a Verona per mettere a fuoco questa iniziativa, avete parlato anche di un'altra e vorrei che fossi tu a ricordarla, perché questa ti spetta, questa tocca a te. Quella della partita? No, quella di che anno, quanti anni sono quest'anno? Ah sì, della partita del 25esimo. La partita, ecco, vabbè. Io non sapevo che fosse una partita. Sì, sì, sì. No, perché il comune con il presidente Chiampan stavano analizzando la situazione di il 25esimo, di fare una buona festa, un buon ricordo, anche per i tifosi, visto che anche il Verona sta andando benino, insomma, speriamo che potrebbe coincidere con la promozione in B, no? Coincidendo in due feste, diventerebbe due feste, insomma, certo, in una, certo. Via, ecco. E noi anche questo abbiamo pensato di fare, ricordare con la squadra dello Scudetto e poi magari con altri giocatori che rappresentano sempre il Verona certo. Però la base è quella del 25esimo, perciò la base è la squadra dello Scudetto, di ricordare, però fare una partita, non so, con i migliori giocatori che ci siano, una cosa e l'altra, non so, resteremmo sempre, invece attraverso Anani e Marangon che si parlano sempre, è venuto fuori di cercare di fare una partita con la nazionale cantanti, ecco, che avevamo già fatto oltretutto noi nel passato, no? E forse anche loro. Comunque, qualcosa. Questa sarebbe una cosa che nella festa, diciamo, ci starebbe anche bene. Insomma, ecco. Senti, se dico con il Chievo, no, perché sennò scatta la rivalità cittadina, eh? No, ho l'impressione. Certo, Chievo fa parte di un'altra. Ha la sua storia, anche lui, anche Chievo da ricordare. Insomma, certo, via. Però questo è il venticinquennale, il quarto di secolo dello storico scudetto del Verona. Autorizzerai i giornali a pubblicare qualche tua fotografia in quell'occasione? Direi di mettere la fotografia del presidente. Del presidente. Che è quello che forse merita di più, insomma. Perfetto. Un abbraccio a Osvaldo Bagnoli. Ciao Gigi. Grazie. Ciao. Grazie, buona giornata e congratulazioni per questa stupenda iniziativa che poi, ripeto, il 25 gennaio, e quindi tra un paio di lunedì, insomma, il presidente Franco Nanni ci illustrerà più in dettaglio. Ha ricordato, Bagnoli, avete sentito, che questa è una cosa che nasce dalla Catalogna, che nasce da Barcellona, che là hanno da decenni addirittura, e che in Italia, in maniera così ufficiale, non credo esista. Ci sono già parecchi ascoltatori collegati, ci sono alcune voci da sentire, alcuni commenti. Proviamo a sentire Luca, provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno Luca, e buongiorno Garanzini, onore. Mi perdoni, la situazione è qua. Non è grave. Dica. È un onore per me. Ehi. Niente, io sono un pseudo tifoso juventino. Sì. E volevo chiederle un paio di cose con una sua osservazione, diciamo. Si è parlato tanto della sostituzione di Ferrara. Ecco, secondo me queste cose non vanno parlate all'ultimo momento. Secondo me sono cose che vanno fatte parecchio tempo prima. Sì, mi sembra una trovata più pubblicitaria quando si dice l'ultima spiaggia e queste cose così. E un'altra cosa, la Juve, come ha fatto sentire lei, ha prospettato molti obiettivi quest'anno con Bettega, che indicava appunto le varie opzioni di quest'annata. Secondo me però non si è fatto un calcolo, oppure si è fatto anche il calcolo che ci sono anche degli azionisti, perché la Juventus è una società per azioni. Tra l'altro io avevo anche acquistato delle azioni della Juve che non sono andate benissimo in questo momento. È una sua osservazione, tutto qua. Tutto qua, beh, insomma, però certo è una società per azioni, è quotata in borsa, ma poi alla fine c'è un management che deve rispondere di questo, e il management si è affidato per la parte strettamente sportiva tecnica a Bettega, ripescandolo dal passato, e adesso Bettega parla di obiettivi stagionali. Non riesco a rilevare nulla di non dico di irregolare, ma semplicemente di strano, di curioso in tutto questo. Se devo rilevare qualcosa, rilevo qualche eccesso, qualche titolo e qualche pagella un po' sbilanciate dopo la partita di ieri sera. Ho letto un titolo sulla stampa: finalmente Diego e Alex, l'inizio di una nuova era. Bah, insomma, non... Cioè, ho visto inizi di nuove ere leggermente, come dire, più segnalati da quello che era accaduto. Però capisco che dopo tante difficoltà e dopo tanti titoli negativi ci sia voglia, o ci sia semplicemente così, l'istinto suggerisca magari di gonfiare un tantino, no? Quello che invece in realtà è stato. Roberto Beccantini, insomma, che è leggermente più ancorato a terra, scrive: la Juventus e la crisi si guardano negli occhi, al di là di un risultato persino obeso e al di qua di una vergognosa cornice, cosa che richiama tutto quello che è accaduto dopo e che poi vedremo in dettaglio. Ivan ha chiamato da Catania, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, intanto le porgo i miei complimenti più sentiti, perché in un mondo dove spesso si alza la voce, lei è una delle poche persone che parla di calcio con pacatezza, e questo è difficile da trovare. Ma perché ho sta voce baritonale, non ho le note alte. Ma perché è una brava, è una, un signore, è difficile trovare, difficile, le dico sinceramente. Io ho praticato il calcio, ho giocato tanto, il mio sport principale è un altro, vengo da uno sport un po' più limpido. E la mia domanda è questa qui: spesso vedo, e so negli ultimi anni, che il campionato di Serie A è leggermente più scadente rispetto ad altri. nel senso che negli anni si è passati dalla formula delle 16 squadre alla formula 20, certo, pensando di migliorare forse spettacolo e qualche altra cosa dal punto di vista dei introiti economici. Invece credo, e io lo dico perché sono il tifoso di una squadra della mia città che in questo momento sta soffrendo molto perché per rimanere in Serie A sta facendo davvero i salti mortali, vedo spesso partite che è così noiose, così tanto poche combattute, con degli 0-0 preventivati. Le dico soltanto che due domeniche fa, vedendo Catania-Bologna, mi è venuto veramente la voglia di spegnere il televisore. Perché non si fa un passo indietro e si ammette di aver sbagliato cercando di copiare i campionati lunghi inglesi a 20, a 22 come la Championship, dove invece la mentalità è molto più votata allo spettacolo, dove si gioca per 90 minuti, si tenta in tutte le maniere di ottenere risultati. Ma qui il problema è duplice, mi pare di capire, Ivan. No, da un lato lei vorrebbe meno squadre perché così ci sarebbe una maggior selezione e se c'è maggior selezione c'è ovviamente una miglior qualità. Dall'altro però invece ne fa una questione di interpretazione poi della partita stessa. Sono due aspetti diversi dello stesso problema. Io comincerei a ridurre le squadre e quindi a dare ossigeno al calendario. Questo automaticamente, a parer mio, migliorerebbe le prestazioni e magari ci libererebbe anche di qualche squadra che secondo me non è all'altezza della Serie A. Grazie Ivan, l'intervallo dei mercati. A tempo di sport. Tra gli argomenti della prossima settimana o delle prossime settimane ce n'è uno che diventerà un argomento clou, certamente, che è quello della nuova spalmatura già progettata per la prossima stagione, già annunciata dalla Lega e di cui avremo un'anticipazione parziale, peraltro, nella settimana del 12 febbraio, venerdì 12 febbraio, quando ci sarà il primo anticipo del venerdì Milan-Udinese per ragioni di Coppa. Dal prossimo anno questo diventerà istituzionale, non solo, ma si giocherà il campionato in alcuni fine settimana, in alcuni, non in tutti, per il momento si dice, ma poi si vedrà, si giocherà il venerdì sera, il sabato sera, la domenica sera e il lunedì sera con la partita anche all'ora di pranzo della domenica. Beretta, neo presidente di Lega, leggo una frase sulla Gazzetta di venerdì e di lunedì per il bene di tutti, e cioè per essere poi più forti in Coppa, per avere più tempo per preparare le partite di Coppa, ma insomma, la prima risposta popolare, insomma, comunque le prime reazioni di un sondaggio fatto da Gazzetta.it dicono che i tifosi sono contrari al 65%, questo è un primissimo dato. Poi dalla settimana prossima ne parleremo in maniera più approfondita, non tanto su sondaggi o non sondaggi, che chi mi segue sa che non sono esattamente mio pane e dal punto di vista dell'attendibilità, quanto sulle conseguenze che una simile frammentazione di calendario avrà non tanto sul calcio quanto sulla vita familiare, e questa mi sembra la vera ricaduta su cui riflettere. Davide è in collegamento da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Tutto buon anno, perché non ci siamo ancora sentiti. Seconda cosa, volevo sapere se il giudice potrà, diciamo, il giudice sportivo potrà visionare o visionerà l'intervento di Contini ai danni di Vettero, perché mi è sembrato veramente... Penso di sì e me lo auguro, perché Contini tra l'altro era già stato espulso, mi pare, nella partita di campionato a Torino con la Juventus, mi pare di ricordare, ma in ogni caso... Un gesto che verso un collega è assolutamente... Oltre che uno dà un calcio e finisce la carriera, ipotesi più pessimista, però lì no, beh, questo, no, questo mi sembrava un atto protervo più che un atto pericoloso. Ma la testa è molto delicata. Io non credo che abbia attentato l'incolumità di Del Piero, ha avuto un gesto di reazione comunque molto molto brutto che mi auguro pagherà caro. Ci sono tutti i presupposti per un intervento della prova televisiva, perché questo gesto di Contini su Del Piero a terra è chiaramente sfuggito all'arbitro. Beh, se l'arbitro l'avesse visto è ovvio che l'avrebbe sanzionato con la severità dovuta. Quindi è probabile, è possibile e mi auguro probabile che questa sanzione ci sia. Ho parlato prima di Gazzetta dello Sport e un ascoltatore, attento lettore, Cristiano Maccagnani, fa un'osservazione che agli amici della Gazzetta non piacerà, ma che trovo ampiamente condivisibile. Oggi la prima pagina della Gazzetta, scrive Cristiano, intitola Diego Ciroale prima scossa. Nel linguaggio comune molte giocate dei calciatori vengono definite con termini bellici, siluro, missile, eccetera, eccetera, che in tempi di guerra non sono mai molto congeniali. Non le pare quantomeno indelicato utilizzare oggi il termine scossa dopo quello che è successo ad Haiti? La risposta è, ahimè, assolutamente sì. Tiziano ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori. Un piccolo intervento e una domanda. Complimenti innanzitutto, perché quando sento Bagnoli mi riconcilio con il calcio. Sport, tra l'altro, nella mia famiglia ha giocato anche a livello professionistico, ma soprattutto per la grande iniziativa che sta adottando. E la seconda cosa, se mi piacerebbe una trasmissione fatta da lei con Tommasi e Bagnoli. Tommasi nel senso di Damiano Tommasi? Ecco, Damiano Tommasi, tra l'altro, sì, la ringrazio. Io credo che, insomma, non lo so, ogni tanto mi capita di intervenire, di essere ospite a Verona, magari in compagnia di Bagnoli, oppure che Bagnoli sia qua. Poi non so se il futuro ci riserverà una vita in coppia, visto che siamo così giovani, e coppia non di fatto in ogni caso. Questo non saprei, certo, è sempre un piacere. È sempre un piacere sentire Osvaldo Bagnoli, risentirlo sia come persona che per i suoi giudizi tecnici quando parla di pallone, che non era il caso di oggi, sia per l'umanità, direi, che trasuda proprio dal suo modo di esprimersi, dal suo modo di vivere, da quella sua dialettica sussultoria quasi, no? che insomma a me piace chiamare così. Persona straordinaria, lo dico adesso che non è più collegato e che difficilmente è in ascolto, perché ha un impegno col suo Miss Nanni, come lo chiama lui, l'avete sentito prima, e quindi perché sennò poi verrei duramente ripreso alla prima occasione. Mario, provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Buon anno intanto. Allora, volevo chiederle qualche cosa a proposito della Fiorentina, questa Cenerentola del campionato che da anni lotta per la Champions. Perché Cenerentola, scusi? Perché è bistrattata, insomma, perché la televisione parla poco e male, perché in Champions per vederla bisogna... non so, bisogna andare a Lourdes perché sennò non la fa mai vedere, ma sono un disastro. Ma non vada a Lourdes, lei si colleghi con cioè lei faccia un abbonamento alla Play. Ce l'ho. E allora? Ce l'ho. Ma sa che finora ho fatto vedere una partita sola. Oggi la vediamo su Rai 3, vabbè. La vediamo su Rai 3 in Coppa Italia, vabbè. E perché non è un tasto come gli altri Rai 3? Sì, no, ma si vede pochissimo. Per essere una squadra che si colloca sempre tra le prime 4-5 del campionato, insomma, è una squadra che, insomma, non so, si sentono più le romane, si sentono più... Ora, passi per Juve, Inter e Milan, che è giusto che sia così. Ma, insomma... Mi sembra, so che i tifosi fiorentini si lamentano molto di questo. Io non sono. I tifosi fiorentini si lamentano a prescindere di che queste lamentazioni viola, storiche, sì. che risalgono alla notte dei tempi, addirittura trovino una sponda, un eco in provincia di Varese, mi sembra sorprendente. Ecco. Sì, noi qui abbiamo un club, per cui un Viola Club. Per cui... Viola Club. Senta, una curiosità: quel giocatore che hanno comprato ieri. Chi? Parla un gran bene, un giovane serbo di 18 anni di cui si parla molto bene. Lei non so se lo conosce, se ne ha sentito parlare. Non ero nemmeno al corrente. E questo fa parte della congiura del silenzio. L'ha pagato 7 milioni e mezzo di euro, una cosa del genere. Ma in generale volevo sapere la sua opinione sulla Fiorentina. In generale, ecco, su è una squadra trascurata, Mario. La mia opinione è presto detta. È una squadra trascurata. E cosa vuole che le dica? La Fiorentina ha fatto è stata la più brava in Coppa fino adesso delle squadre italiane. E fin qui direi che parlano i risultati, parla parla la prodezza di aver eliminato il Liverpool e tutto il resto. In campionato dire che il cammino della Fiorentina sia stato altrettanto, non dico esaltante, ma insomma altrettanto in linea, non direi. Se guardo la classifica della Fiorentina, la trovo deficitaria rispetto ad altre squadre. In una classifica di merito, cioè nel rapporto, diciamo, qualità-prezzo, e quindi nel rapporto potenzialità e punti ottenuti, credo che la Fiorentina sia tra quelle che non dico hanno fatto peggio, ma hanno fatto meno bene nel girone d'andata, visto che siamo arrivati a metà cammino. Vincenzo Ferrara, buongiorno. Buongiorno signor Garantini. Dica. Niente, io ho visto la partita della Juventus ieri sera, non mi ha entusiasmato un granché, però a parte quello, vorrei dire che secondo me un club prestigioso come la Juventus non si merita un tifo come quello che si è visto, gente che brucia la roba sugli spalti e quant'altro. E poi riguardo a quello che si parlava riguardo il calcio inglese, la Juventus sta facendo quello che sta facendo la squadra inglese, la prima società di calcio mi sembra che stia facendo uno stadio di proprietà. Sì, quindi questo. Molti investimenti, usando parole sue di poco tempo fa, molti investimenti magari sono stati dirottati per costruire questo stadio. Sì, Vincenzo, sì, certamente, in buona parte è vero, però. Però questa è una. Questa è la tesi di Blanchi, insomma, cioè questa è una tesi vagamente assolutoria. È giusto progettare e preparare un grande futuro, il migliore possibile, però non si può perdere d'occhio il presente, come invece mi pare che alla Juve sia accaduto più o meno, indipendentemente poi dai segnali di risveglio di ieri, che lei stesso ha giudicato, insomma, reali fino ad un certo punto. A me sembra, le ripeto, tutti i trionfalismi che ho letto e che ho sentito fino a 10 minuti dalla fine non avevano veramente senso, come non avevano senso certi voti che poi ho letto in pagella su alcuni dei protagonisti. Gianluca ha chiamato dalla provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo parlare del primo gol della Juventus. Magari sì. Questa mattina al lavoro sono riscosso il rischio di essere linciato dai tifosi, diciamo, gli amici miei colleghi, in quanto ritenevano che la Juve si era comportata scorrettamente. Ma io penso che sia arrivato il momento di finirla con queste simulazioni che fanno. Appena si perde la palla si butta a terra con la speranza che la squadra avversaria debba buttare fuori il pallone. Mi sembra una cosa talmente, cioè, diciamo, antisportiva proprio questa cosa che fanno. Esattamente, non so... Gianluca. E lei stamattina ha corso il rischio, mi auguro, non di essere linciato davvero fisicamente. In maniera bonaria, ovviamente. Ah, però ecco. Io dico, soprattutto antisportivo il fatto che si butta a terra con la speranza di fermare il contropiede altrui. Non lo so, volevo sapere il suo parere. Però... Il mio parere è che non necessariamente c'è dolo, nel senso che può darsi benissimo, dato che a prendere una pedata fa male, questo chiunque abbia giocato a pallone sa che i calci comunque fanno male, come fa male le gomitate, fa male cadere magari male, semplicemente anche solo per una spinta. Io non faccio il processo alle intenzioni, può darsi che datolo... cadendo sia caduto male, abbia preso un colpo, che ci abbia messo un attimo a rimettersi in piedi. Da qui a fermare il gioco, a buttare la palla fuori, no, assolutamente no. Quindi non c'era nulla di irregolare, secondo me, in quel gol, ed è anche bene che così come è accaduto ieri, è anche bene che da ora in avanti il gioco continui. Quando c'è da interrompere un'azione, sono i primi giocatori stessi a rendersi conto della gravità dell'accaduto. Quando si vede un impatto, non so, per citare un esempio molto recente, davvero pericoloso, un impatto aereo come quello tra Kivu e Pelissier, i giocatori smettono immediatamente di giocare, lasciano andare la palla perché si rendono conto che è successo qualcosa di gravissimo. Se ne rende conto anche l'arbitro, che interrompe il gioco, ma se per caso all'arbitro sfugge la gravità dell'accaduto, lì ci pensano i giocatori, come è giusto, perché ci mancherebbe altro che non ci fosse solidarietà in quell'istante di pericolo vero. Kivu è ancora... Kivu, vediamo se tornerà in campo, se e quando tornerà in campo. Ma quando l'azione è banale, come quella di ieri sera, non, veramente interrompere l'azione sarebbe eccessivo. E Così come eccessivo sarebbe stato il fair play di Ferrara, che ci hanno informato i telecronisti, era invece in piedi per chiedere ai suoi giocatori di buttare fuori il pallone. Ferrara in quel momento ha avuto quel tipo di istinto. I giocatori si sono resi probabilmente conto che non c'era davvero nulla di grave e quindi nessuna ragione valida per interrompere l'azione. C'è una ragione valida per interrompere questo discorso, perché è passato un minuto in più rispetto all'appuntamento con le strade. A tempo di sport. Il ripasso di storia, il 14 gennaio, nel racconto di Nicola Filippone. Sembra ieri. 14 gennaio 1968. L'Inter travolge il Cagliari per 3-0, grazie a una doppietta di Mazzola e un gol di Domenghini. Ma il risultato del campo sarà ribaltato dal giudice sportivo, che assegnerà ai sardi il successo a tavolino per 2-0. Nel corso della gara, infatti, il libero argentino Miguel Angel Longo era stato colpito da una monetina scagliata dagli spalti. Sicuramente l'episodio più brutto di una stagione tutt'altro che memorabile per l'Inter. Gli uomini di Herrera, che in estate aveva dato il via alla rivoluzione vendendo Picchi, Guarneri e Jair, concluderanno il campionato con un deludente quinto posto. La monetina di Longo nel 68 fece abbastanza epoca. Fece rumore molto. E però fece abbastanza epoca come casistica. Pietro ha chiamato da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Tre considerazioni, due relativamente alla partita della Juventus e una che si collega direttamente. La prima, la vittoria della Juventus indubbiamente è solo un brodino caldo che ha messo a posto la pancia a Ferrara, un po' alla dirigenza e ai giocatori, e per assurdo in un momento adesso di crisi di gente come quella attuale, forse tutti quanti quelli che vanno in campo tireranno fuori gli attributi e può darsi che qualcosa di positivo venga. La seconda considerazione, la telecronaca di ieri sera della RAI della partita. 50 anni di tutto il calcio minuto per minuto probabilmente non sono serviti a niente, perché è stata semplicemente scandalosa. Non voglio fare i nomi di chi erano i commentatori. Ma in che senso scandalosa? Di parte, prima di tutto. Di parte? Di parte, perché possiamo stare Bagni, che vabbè, si può anche capire, ma il telecronista sembrava che giocasse il Napoli contro non si sa chi. Ma in che senso? Non... Vabbè, tanto, parte il fatto che tanto accontentare tutti e accontentare i tifosi è impossibile. Comunque, questa non l'ho capita. Andiamo alla terza. Poco professionale da parte di un telecronista. L'ultima considerazione riguarda i cori relativi a Balotelli. Si ritorna sul ennesimo argomento. Premetto che sono completamente d'accordo con l'inutilità di tutte queste cose qui, e gli voglio fare una domanda. Se il mitico Osvaldo avesse gestito un personaggio come Balotelli, puntini, puntini, puntini. Sono finiti i puntini? Sì, esatto. No, era per capire, perché interrompere è sempre rischioso. Bagnoli avrebbe avuto il suo da fare, certamente, come chiunque, come c'era Mourinho, come l'aveva prima Mancini, e finché ce n'è. Ma io credo che qualsiasi allenatore, quando si trova davanti un talento come Balotelli, per di più nel suo caso condito da un fisico strepitoso, accompagnato da un fisico strepitoso, credo che faccia il possibile e l'impossibile per cavarne il meglio che si può, e questo è un aspetto. Poi l'altro aspetto, non ho capito l'interpretazione di questo ascoltatore rispetto a questi cori, perché è vero che anche ieri sera sono riusciti i tifosi della curva, che ripeto per l'ennesima volta viene indegnamente chiamata Scirea, indegnamente sono ritornati in azione con i consueti cori razzisti nei confronti di Balotelli, che mi risulta in contumacia nel caso di ieri, visto che giocava il Napoli e non l'Inter. Ci sono stati gli interventi dello speaker dello stadio per invitare a smetterla, e naturalmente questi interventi non hanno fatto che rinfocolare i cori. Chi ha assistito alla chi ha assistito alla partita, io non ho notato nulla di quello che questo ascoltatore dice a proposito di telecronaca. Credo invece che la vera nota oggettiva sia stata che sembrava una partita in zona di guerra, perché echeggiavano in continuazione rumori di petardi, di bombe carta, di cose, qualcosa di veramente vomitevole. E tutto questo è andato avanti sull'uno e sull'altro fronte più o meno per l'intera partita. E poi, mentre i tifosi, sì, insomma, mentre questi signori della Juventus si erano poi, a parte i cori razzisti di ieri, si erano più sfogati già domenica sera incendiando i seggiolini, quindi non dico che fossero appagati, ma insomma si erano portati avanti, è toccato a quelli del Napoli poi concludere degnamente la partita con una sassaiola che ha costretto al ricovero in ospedale 5 steward, uno di questi con un trauma cranico, ed è tuttora in osservazione. La ragione è questa, per cui vi leggevo nella prima parte quel comunicato della Lega: è stata vietata la trasferta dei tifosi napoletani a Livorno la prossima di calendario. Fedele ha chiamato da Verona, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, chiamo da Verona, la città di Bagnoli, che ne andiamo orgogliosi, anche se io sono interista di fede. Però le volevo dire una cosa riguardo a quelle simulazioni come ieri sera ad Atolo, che sono cose indegne per uno sportivo, ma non sarebbe sufficiente, nel momento in cui io fermo il gioco per soccorrerlo, dire come regolamento: perfetto, adesso il signor D'Atolo, chi per esso che rimane a terra, se ne sta fuori 5 minuti? No, nel caso di ieri sera no, Fedele, perché nel frattempo la Juve perde un'azione da gol. No, ma però lei deve, ieri poi è stato un golucato, però se lei si mette nei panni anche di chi sta giocando, sapendo che c'è un giocatore a terra, o noi spettatori che guardiamo la TV, cala la tensione, cala tutto, c'è un giocatore a terra, la sportività dice che io devo buttare il pallone in tribuna. Però ma io la sportività mia del pallone in tribuna è regolare, la sportività di chi resta a terra perché gli esce un filino di sangue dal naso, perché è un altro problema. Ma Fedele, però io sostengo anche il diritto di chi sta a terra di aver preso un colpo, ma perché no? Cioè, perché deve essere per forza un simulatore? Magari uno che la sta facendo un pochino più grossa, ma anche la percezione del dolore non è mica identica, magari lei piglia un cazzotto. Allora, in questo caso da ragione a me, allora io piglio un cazzotto, non credo che dopo 26 secondi se piglio un cazzotto posso rigiocare. No, ma magari un altro... Sto fuori 5 minuti col mio medico, dov'è il problema? Mi soccorro, sto fuori 5 minuti, perché secondo me lei forse probabilmente non vede tutta questa cattiveria che io vedo, ma su 100 giocatori 96 sono simulatori. Ma no, guardi, non è questo. Ho giocato a calcio io per primo, magari male, ma è così. Cioè è normalissimo, sto per terra, faccio fermare il gioco, ma arriva dentro, ma io non ci credo, perché sennò non si giocherebbe più a pallone. Sono casi che succedono, ma sono casi abbastanza, no, non è come sta dicendo lei che tutti sono simulatori. Io parto dal presupposto che prendere un colpo fa male e può darsi che uno resti giù perché in quel momento a mano non riesce a alzarsi, oppure, poi c'è chi ci marcia, che discorso, ma non mi sembra però questa, non mi sembra stia diventando un caso, non è questo, non sono questi i problemi veri del calcio, secondo me, sono anche questi, sono aspetti da migliorare, ma c'è altro, eh. Antonio da Milano, buongiorno. Buongiorno Gigi, è sempre un piacere parlare con lei. Io sono tifosissimo del Napoli e volevo due cose velocissime. Uno, chiederle come ha visto il Napoli ieri e dove il Napoli quest'anno può arrivare in campionato. Poi volevo dire che io ho frequentato per un decennio le curve B e A dello Stadio San Paolo e devo dire che gli ultras sono veramente una piaga, ma andrebbero debellati proprio, io non so come, ma questa mentalità degli ultra da tutti gli stadi andrebbe debellata. Io vorrei tanto capire come, vorrei cercare di fare qualcosa perché non posso più andare allo stadio con una bambina, una moglie, perché lo altrimenti capisco, vista che mi capita, vorrei tanto fare qualcosa per questa storia qua. Anche se però una cosa che io dico, quelle bellissime coreografie che si fanno negli stadi italiani dipendono da loro, l'unica cosa buona che fanno, quindi su questa storia delle coreografie l'unica cosa alla quale io... Ma io, Antonio, io credo che rinuncerei molto volentieri, credo che tutti rinunceremmo molto volentieri a queste coreografie che qualche volta sono divertenti, qualche volta sono meno divertenti, rinuncerei molto volentieri a tutto questo in cambio di stadi più puliti e vivibili. Raffaele ha chiamato da Padova. Buonasera. Dica. Io intervengo sulla partita di ieri. non considera infelice la scelta di Mazzarri di aver schierato sostanzialmente le seconde linee in una partita che poteva dare ulteriore impulso alla stagione del Napoli e comunque consentire alla squadra di accedere ad una partita di quarti contro l'Inter? Infelice non so, Raffaele, discutibile certamente sì, infatti credo che la discuteranno. Sia sempre lì, qual è l'obiettivo primario? Credo che per il Napoli sia provare ad arrivare entro le prime quattro, magari possibilmente entro le prime tre, e a quel punto domenica sera è una brutta partita, sin da ora una partita difficile col Palermo, anche se in casa, e credo che questo sia stato il ragionamento che Mazzarri ha fatto, fermo restando che le seconde linee, se ce l'hai prima o poi le devi anche utilizzare, se no che cosa ce le hai a fare? Quindi non saprei. Andrea, Verona, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, Garanzini. Dica. Sono stato anticipato dal radioascoltatore di 2-3 interventi prima e mi trovo d'accordo sull'argomento di dare una penalità a chi nel 90% dei casi simula. Lei non è d'accordo, però forse il radioascoltatore esagerava sui 5 minuti, ma secondo me 2 minuti fuori farebbero bene per evitare questo tipo, ma di sì, non ma gioco. Può essere, ma è indimostrabile però, Andrea, cioè è indimostrabile che uno in quel momento abbia male perché è caduto male, oppure sta giù perché è caduto male, o sta giù perché, cioè, ci sono simulazioni clamorose. Allora, quando uno si butta giù in area in maniera plateale, come ogni tanto si vede, allora cacciamolo anche dal campo. Io sarei molto severo in quei casi, espulsione finché ce n'è, ma se uno rimane giù perché ha preso un colpo è difficile poi dimostrare, o perché è caduto male, è difficile poi dimostrare se meritava l'espulsione a tempo o non la meritava. Il calcio mi sembra già abbastanza complicato com'è, e non starei a complicarlo ulteriormente. Grazie a Flavio Suardi e a Franco Piantanida in redazione, a Pietro Lacorte in regia, e buon pomeriggio a tutti.